got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? E allora buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, mettiamoci subito a tavola e quindi abbiamo con noi una graditissima ospite anche questa sera che abbiamo invitato a cena, la giornalista e scrittrice italiana di origine marocchina, ma potrei dire cosmopolita davvero, Anna Majar Barducci, buona serata. Buonasera, grazie per avermi invitato. Grazie a lei per essere con noi. Allora, so che lei ci ha portato un piatto e andrei subito a iniziare proprio da questo piatto. Beh sì, diciamo che è abbastanza difficile a volte scegliere un piatto adatto, però partirei diciamo più che altro con qualcosa da bere prima che qualcosa da mangiare. E quindi partirei con comincerei con un tè salato del Pakistan, una cosa inusuale per un occidentale, ma che diciamo proprio perché è diverso, forse può essere piacevole provarlo una volta. E quali sono gli ingredienti principali di questo tè salato? Sono vabbè, ovviamente l'acqua, del sale appunto, poi bustine di tè verde, e un pizzico di bicarbonato di sodio e mezza tazza di latte. Pakistan, quindi ci focalizziamo su questo paese, anche se appunto lei è di origini marocchine, italiana, il papà è italiano, no? La mamma è marocchina, sì. Vive adesso a Gerusalemme ed è cresciuta tra l'Italia e l'Africa, però ha vissuto a lungo in Pakistan, no? Dove ha studiato. Su questo paese lei ha scritto un libro molto interessante, Pakistan Express, ed è il primo libro di ricette che si apre con, mi verrebbe da dire, con una cartina politica, no? Perché, sì. Perché al di là delle ricette che ci sono, può essere letto anche come un ricettario, ci sono le descrizioni anche delle influenze della cucina pakistana, quindi si apprende che sono stati i Khan della dinastia centroasiatica dei Mogul a portare in Pakistan le erbe, le spezie della tradizione culinaria persiana e poi insomma si imparano molte cose di questo paese, della sua storia attraverso le ricette e i piatti. Sì, ho frequentato lì il liceo e poi dopo ho continuato ad andare in Pakistan anche dopo terminato il liceo, poi sono ritornata poi in Italia per l'università, però i miei erano rimasti lì e quindi continuavo i viaggi tra l'Italia e il Pakistan. Ed è ambientato proprio nella zona, ci racconti un po' dove è stato poi ucciso Osama Bin Laden, no? Sì, beh, per casualità ecco, il progetto di mio padre si trovava proprio ad Abbottabad, la stessa cittadina dove si nascondeva Bin Laden, e quindi diciamo che il libro è andato in stampa proprio nei giorni in cui era stato ucciso Bin Laden ed è stato diciamo... E lei ha vissuto nello stesso quartiere dove lui si nascondeva? Sì, la nostra casa non era troppo lontana da quella zona. Che effetto le ha fatto quando ha sentito la notizia? Sorpresa, ma non scioccata. Il sottotitolo proprio del libro, Vivere e cucinare all'ombra dei talebani, dice in effetti qualcosa di più. Come mai raccontare questo paese attraverso le ricette? prima di tutto perché si ha la necessità un po' di raccontare, quando si racconta di un viaggio, piace raccontare dei sapori, degli odori, e diciamo che in un libro non si possono mettere dei profumi, però l'unico modo per far rivivere quegli stessi odori, quegli stessi appunto profumi, è attraverso delle ricette, perché poi uno se le può rifare a casa e può anche volendo annusarle, ecco, e rivivere anche quegli odori che si sentono per le strade del Pakistan. Ci sono dei contrasti fra i personaggi e i piatti che preparano, e quindi c'è la bomba atomica del Kashmir, o meglio la sua minaccia, con il pollo biryani, i Kalashnikov col kebab di Peshawar, no? Ogni personaggio attraverso un piatto che sta mangiando, che consuma di nascosto, a cui pensa, racconta un pezzo di questo paese. Trovo proprio bella questa idea, perché ci racconta del Pakistan che conosciamo poco, quello delle intimità delle persone, certo. della loro normalità. Sì, esatto, della quotidianità, della normalità, è questo che volevo un po', insomma, spero di esserci riuscita a raccontare. Quel Pakistan che non vediamo, che non sentiamo, perché comunque nei telegiornali tutto quello che sentiamo è sempre comunque legato a fenomeni di terrorismo, e dell'altro Pakistan non si parla mai. Quindi, dato che è un paese che mi ha ospitato per vari anni, ho pensato di offrire così un tributo a questo paese con questo libro. Chai al latte con cardamomo. Il Pakistan è tra i maggiori consumatori di tè, di chai, al mondo. Nel paese il chai non è soltanto una bevanda popolare, ma è anche simbolo di ospitalità. La cultura vuole che all'ospite venga servita come minimo una tazza di tè caldo. Persino il commerciante del bazar offre del tè al possibile compratore per mostrargli la sua onestà durante la transazione e metterlo a proprio agio. Ingredienti per una persona: semi di cardamomo, 100 ml di latte intero, acqua, tè nero, zucchero. Preparazione: in un pentolino mettere una tazza d'acqua e portare a ebollizione. Aprire circa una decina di semi di cardamomo e aggiungerli all'acqua bollente. A questo punto aggiungere anche una busta di tè nero. Quando l'acqua prende il colore del tè, aggiungere il latte e portare il tutto a ebollizione. Far bollire per 10 minuti. Spegnere il fuoco, aggiungere lo zucchero e gustare preferibilmente caldo. Lei è conosciuta in Italia anche per un altro libro, Italo-Marocchina, storia di immigrati marocchini in Europa, di Abasis, del 2009, ed è con questo libro che io in realtà l'ho conosciuta. Ho trovato un ritaglio che parlava di questo libro, l'ho conservato per un po' di tempo, poi sono riuscita a leggere questo libro, che secondo me è un libro che dovrebbe essere letto nelle scuole italiane, perché dice molto di come si vive in Italia, si cresce in Italia con delle radici da qualche altra parte. Lei ha la mamma marocchina, no? E racconta di questo viaggio in Marocco, un viaggio vissuto a volte con gioia, a volte un po' con insofferenza, come viviamo un po' i viaggi che ci impongono i genitori, no? Sì, esatto. E di questo essere italiana in Marocco e straniera un po' in Italia. Sì, beh, penso che sia un po' la realtà di molti, non so, sia di ragazzi che magari hanno entrambi i genitori stranieri, sia chi ha come me un genitore che è venuto in Italia, un genitore italiano, perché a volte appunto credo che siamo abituati a considerare l'identità come unica, no? E quando uno invece ha un'identità un po' più complessa si sente un po' marginalizzato, diciamo. Noi ci fermiamo brevemente, torniamo con Anna Majar Barducci tra pochissimo dopo questa breve pausa. L'Europa è sempre più presente nella vita quotidiana dei giovani italiani. Come migliorare le cose? Come rendere l'Italia un paese inserito nel flusso di circolazione dei talenti? Vogliamo sapere la vostra! Giovani Talenti è alla ricerca di 4 under 40 da inviare all'Europarlamento di Strasburgo e altrettanti cui consegnare un pass per visitare il padiglione europeo a Expo 2015. Come fare? Basta sintonizzarsi ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Tutte le settimane vi proporremo uno spunto di riflessione su cui potete inviarci una proposta in 140 caratteri via email. Fino al 16 maggio cogli l'occasione per dimostrare il tuo talento e lanciare proposte generazionali. L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato con Giovani Talenti. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Indovina chi viene a cena questa sera. Abbiamo Anna Majar Barducci, giornalista e scrittrice italiana, che ci racconta qualcosa sul suo libro Italo-Marocchina, scritto qualche anno fa. Anna, leggo un passo dall'inizio del libro. Mia madre decise che avremmo trascorso tutte le estate in Marocco. Diventò una tradizione che per me si trasformò ben presto in un obbligo. Mi piaceva andare in Marocco, ma quando poi tornavo in Italia mi sentivo fuori posto. In quegli anni ero l'unica in tutta la scuola ad avere origini straniere, pertanto per i miei coetanei la mia identità italo-marocchina era proprio strana. Da parte mia non ci avevo mai pensato, insomma, se per me non era niente di straordinario, per i miei compagni di classe era chiaro che non fossi una di loro. Avevo tanti riccioli neri, gli occhi neri, la pelle olivastra, loro invece erano tutti castani con gli occhi verdi o marroni e la pelle chiara. Come mai le è venuta la voglia di raccontarlo in questo libro? Forse come dice Amin Maalouf, lo scrittore libanese, franco-libanese, no? Dice ogni tanto invece di farsi un esame di coscienza, uno si fa un esame di identità. Quindi ecco, forse questo era quello che volevo fare col libro, un esame di identità. Racconta la storia di una, in questo caso mia, tra il Marocco e l'Italia, come ci si può sentire dal punto di vista identitario a vivere tra due mondi un po' diversi, quello che sentono anche i familiari da una parte e dall'altra, la parte italiana e quella marocchina, e anche, diciamo, racconta anche un Marocco diviso tra la tradizione e la voglia invece di andare avanti. Di modernità. C'è questa modernità, cugina, esatto. Lamia, questa cugina che sopra la maglietta di Zidane si mette il velo. E lei scrive: andò nella stanza accanto e iniziò a pregare. Ero confusa, suo padre poteva averla contagiata, nessuno nella mia famiglia aveva mai pregato, a parte Karim, che non era certo un esempio da seguire. Rashid, quando la vide, fece una faccia perplessa. Lamia, urlò lo zio dal divano, stai pregando verso l'America, la Mecca è dall'altra parte. Scoppiamo tutti in una risata. È un passo che, insomma, mette assieme tante cose, appunto la voglia di modernità, la tradizione, l'essere attratti anche da una tradizione, forse per una questione identitaria, no? Per cercare una questione identitaria. Sì, penso di sì, penso che da questo punto di vista penso che sia attuale questo argomento, in quanto vediamo oggigiorno parlare quotidianamente di islamizzazione, di islamismo, e quindi molto spesso si tratta di giovani di seconda generazione che cercano un'identità, una, cioè non riescono ad accettare che l'identità possa essere anche molteplice, che possa averne più, che un individuo possa essere più complesso, che non ritrovare se stesso in una sola identità e fare di quello una specie di estremismo, no? Ha una storia anche personale interessante, perché adesso vive a Gerusalemme ed è sposata con una persona ebrea, no? Sì, sì, sì. Quindi concilia nella sua famiglia tante identità. Esatto. Sono deista. Come è avvenuto questo incontro? Perché è anche un incontro culturale interessante. Sì, beh, diciamo che una casualità, mi trovavo qui a Gerusalemme, ho incontrato qui mio marito e questo incontro avviene soprattutto perché la mia famiglia è fondamentalmente laica e quindi riusciamo a, non ce ne accorgiamo nemmeno di appartenere, diciamo, a tre fedi diverse. Quindi madre musulmana, padre cristiano e marito ebreo, ma diceva appunto di cultura fondamentalmente laica, che però ha poco significato in certi paesi, no? In Marocco, ad esempio, nel libro si racconta bene quanto questo abbia un significato relativo, l'essere laici. Certo, beh, soprattutto in Marocco, ma anche qui ora dove mi trovo in Medio Oriente, a volte diciamo la religione non è più, appunto si parlava di identità, non è solo una fede, ma è proprio un'identità. Essere cristiano in Libano, per esempio, essere sciita in Libano ha molta più, porta con sé un valore fortemente identitario, ancor prima che religioso. Impressione ha avuto della questione tunisina e dell'attentato che c'è stato di recente? Noi siamo abituati a pensare alla Tunisia come anche al Marocco come a paesi appunto molto turistici, moderni, fondamentalmente vicini a noi. Sì, beh, io ho vissuto 6 anni in Tunisia, avevamo una casa a Tunisi, conosco bene quei luoghi, diciamo che c'era già prima con Ben Ali un fenomeno islamista crescente in quanto come opposizione al regime di Ben Ali, quindi c'erano molti studenti che magari avevano una famiglia socialista atea, però loro le ragazze magari iniziavano a mettersi il velo nonostante fossero i genitori a non volerlo, ma era come un segno per opporsi al regime dittatoriale che esisteva all'epoca. Poi è caduto il regime con la rivoluzione e ora il paese comunque sta combattendo per portare a buon termine questa rivoluzione. Come tutte le rivoluzioni non durano un giorno, quindi questo è ancora dentro un processo transizione. Di assestamento. Certo, in Marocco sarebbe potuto accadere qualcosa del genere. Beh, il Marocco è stato già vittima nel 2004 di un attentato terroristico contro la comunità ebraica, quindi diciamo che ogni giorno comunque il governo marocchino combatte contro il terrorismo. Molto spesso vengono arrestati dei terroristi che vanno in Libia, in Siria, eccetera. Quindi perlomeno sembra che per il momento sia tutto sotto controllo. Lei ha anche scritto di recente un libro con sua figlia, è un libro a 4 mani per immaginare una scuola davvero strumento di integrazione. Credo, da quello che ho letto, che nasca anche dalla incapacità da parte di una bambina come sua figlia di trovare nei libri, nelle favole, una situazione simile alla sua. Sì, esatto, molto spesso appunto è difficile trovare un libro per bambini, per l'infanzia che abbia un personaggio, che abbia un padre di un luogo, la madre di un altro, E quindi è nato per questo, questo libro, per spiegare un po' che l'identità è complessa, non deve essere un tutt'uno monolitico, ecco. E la prefazione è di Graziano Del Rio, che allora non era ancora sottosegretario e insomma parlava dello Ius Soli probabilmente in maniera più libera di quanto possa fare adesso, no? Diceva che nel 2029 ci saranno 2 milioni di minori nati in Italia ma considerati stranieri e che forse bisognerebbe fare qualcosa. Non so adesso cosa potrebbe dire di così franco, però insomma si va in quella direzione. Questi sono dati statistici, quindi si va in quella direzione. Ma cos'è che in Italia, secondo lei, ancora arranca? La mentalità, i fondi per gli insegnanti, la politica, i giornali che sono rimasti a modelli identitari forse antichi, che non esistono più? Ma forse tutte e tre insieme, soprattutto la televisione che i bambini bene o male la guardano. E non, io non vedo mai in un canale italiano una persona con, asiatica, che la fanno parlare in italiano, di solito la fanno sempre parlare in cinese oppure con un accento cinese, parlando senza la R, no? Con la L al posto della R, cosa che invece insomma andando a Prato se ne vedono tanti di persone con una fisionomia asiatica che sono completamente pratesi, quindi non capisco perché ancora ci ostiniamo a questi modelli identitari un po' antiquati che non rappresentano affatto l'Italia di oggi, ecco. La cucina del Marocco è apprezzata in tutto il mondo per il modo in cui concilia con raffinatezza spezie rare e profumate, pesci delicati e carni saporite. La cucina marocchina è considerata la migliore delle cucine orientali e vanta oltre 2000 anni di storia, col pregio di accomunare diverse realtà gastronomiche. Il pasto di mezzogiorno è il pasto principale, eccetto durante il sacro mese di Ramadan. Un pasto tipico inizia con una serie di insalate calde e fredde, seguite da un tagine. Il pane è consumato a ogni pasto. Spesso, in un pasto formale, segue un piatto di agnello o pollo, a sua volta seguito da un couscous sormontato da carne e vegetali. I marocchini, di solito, mangiano con le mani e usano il pane come un utensile. Il consumo di carne di suino e bevande alcoliche è considerato haram ed è proibito dalle restrizioni alimentari musulmane. La cucina marocchina differisce completamente dalle altre cucine arabe grazie anche all'influenza di altre culture. La Spagna ha fatto conoscere in queste terre l'olio, le olive, le noci, alcuni frutti e le erbe con cui oggi in Marocco si cucinano molti piatti. Gli arabi diffusero l'utilizzo delle spezie. I francesi e gli italiani insegnarono un modo diverso di preparare le pietanze. Datteri, latte e cereali sono stati invece inseriti nella tradizione culinaria marocchina dagli arabi beduini, mentre gli arabi d'Oriente hanno importato le spezie, divenute elemento fondamentale della cucina marocchina. Dai berberi, la cucina marocchina ha ereditato il couscous, piatto a base di semola con carne e verdure, il tagine, stufati di carne o pesce cucinati nei contenitori di terracotta a forma conica, e il tè alla menta. Tradizionalmente, fare un buon tè alla menta in Marocco è considerato una forma d'arte e berlo con gli amici e la famiglia è spesso un'abitudine giornaliera. La tecnica del versare è cruciale come la qualità del tè stesso. Le teiere marocchine hanno beccucci lunghi e curvi e ciò permette al tè di essere versato uniformemente in piccoli bicchieri da una certa altezza. E cosa le è rimasto, visto che ormai vive a Gerusalemme, dei profumi della cucina della tua città natale di Viareggio? Sì, di Viareggio. Beh, qui a Gerusalemme non c'è il pesce tanto perché siamo in collina, però diciamo che per la cucina italiana oramai si trova ovunque, anche se non è fatta come in Italia, però diciamo la pizza, le lasagne si trovano anche qui. انتي عمري وانتي حياتي تمنيت ان اعيش معك غير انتي عايشه هيك وتعيش c'est moi. Aïcha, Aïcha, elle est de brique. Oh, Aïcha, Aïcha, t'en vois pas. Aïcha, Aïcha, mon moutali. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Grazie, io la ringrazio molto per essere stata con noi, Anna Magiar Barducci. Grazie, buonasera anche a voi. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, a tutti voi per essere stati all'ascolto. Io vi do appuntamento a sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory.